Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? Magazine che ci tengono compagnia durante il weekend, questi inserti culturali allegati ai principali quotidiani per questo weekend, letterari, cinematici, musicali, se vogliamo, con consigli che indubbiamente sono da portare con attenzione. Chi non ha mai immaginato una colonna sonora per qualsiasi momento, per qualsiasi istante, per una stagione, per una giornata? Chi ha una sensibilità tale da poter comporre una colonna sonora, oltre che il talento ovviamente di donare le note, la musica, gli istanti come se fossero pellicole, sta creando un soundtrack per una pellicola immaginaria. Anche se vengano definiti a pagina 12 di Alias nell'edizione del sabato del Manifesto come film fantasma, tracce insolite, colonne sonore realizzate per pellicole che non esistono ma che potenzialmente potrebbero esistere. Beh, diciamo che sì, forse sono molto idealista, ma per me sono, ci sono, ecco, esistono. Ed è interessante, nel paragrafo ultrasuoni da pagina 12 a pagina 13, la rassegna di dischi che danno un'idea di colonna sonora immaginaria. Tra l'altro ha anche trovato il James Taylor Quartet, e ne parleremo a breve, insomma, anche di questa, secondo me, affascinante formazione. Quello che vediamo, oltre che a una colonna sonora come James Taylor Quartet, traci, jazz, blaxploitation, e anche uno smooth groove molto interessante, non solo, ma abbiamo anche Motor Psycho con The Tussler del 1994, tanti altri, Barry Adamson, Moss Side Story 1989, i grandi Stereophonic, sì, gli Stereophonic, Space Sound Unlimited, Play Lost Tribal Themes 1997. In questo caso le colonne sonore immaginarie vanno a coinvolgere serie televisive inesistenti, ovviamente, ma che sono un bel bacino di riferimento per far gioco di citazione di sonorità. Gioco di citazione di sonorità, e non solo, anche aspetti che immaginiamo noi che allo stesso modo possono essere abbinati a musica. Chi ne ha il talento di poter comporre, beh, è un bel dono, direi. Altri aspetti, storie di fuorilegge nel West, di taxisti alla ricerca dell'amore perduto, tra surrealismo, spie, horror, blaxploitation e kung fu. Per quanto riguarda l'aspetto acid jazz e, se vogliamo, anche blaxploitation, io ho portato un brano di James Taylor Quartet. È un articolo molto bello con rassegna e consigli discografici, di cui ne ho consigliati alcuni. A Small Good Thing, Slim Western 1995, anche questo un altro disco molto interessante. Ora James Taylor Quartet. I'll show you the way. da vedere oltre che da ascoltare, quella micro sensazione di una pellicola che non esiste, ma che in realtà dentro di noi esiste, e poi riportarla in note in maniera concreta. Beh, bravi questi autori come The James Taylor Quartet. Da questo lavoro un extended play dei brani inediti, Keep the Dream Alive, a proposito di sogno riportato in concretezza e in note. Copertine di James Taylor, qui lo troviamo al volante di un'auto tipicamente anni 70, la dolcezza con un tipo di easy listening smooth come Across 110th Street di Bobby Womack per Jackie Brown, la sigla iniziale, bellissima tra l'altro. Ecco, per pellicole realmente esistite, Tarantino ha un gusto eccezionale. Pensate che a volte sono andati oltre, beh, grazie a un enorme talento come Ennio Morricone. Molte volte Morricone componeva questo tema e poi alcuni registi lo volevano per essere ispirati, registi e sceneggiatori, essere ispirati per poi costruire il film intorno alla musica. James Taylor Quartet ha portato anche una rilettura molto fedele della serie della Starsky Hutch a proposito di Blaxploitation, molto fedele, molto ripresa dall'originale, quindi un'attinenza a tutto ciò viene l'ispirazione di James Taylor, oltre che, come stiamo ascoltando, all'acid jazz tipico di inizio anni 90. Allora, beh, del resto anche cinema, se vogliamo, e che cinema in questo caso. E anche qui ho dato una colonna sonora a modo mio in questo caso, mi sono permesso. Lui è uno tra i più grandi scrittori di tutti i tempi, del Novecento sicuramente. Nasceva il 30 settembre 1924, quindi 100 anni, moriva il 25 agosto 1984, il romanziere che ha creato un'icona straordinariamente cinematografica e un genere, la non novel fiction, che adesso io non saprei come interpretare con tutti questi termini, però che vanta numerosi tentativi di imitazione. Le controversie sulla sua opera non sono mai finite. È ora di fare chiarezza, scrive Franco Cordelli a pagina 14 per un grande classico, Colazione da Capote, Truman Capote, uno scrittore gigantesco. Il centenario della nascita di Truman Capote, lui stesso nacque a New Orleans, da subito figlio unico, dice, e appunto per il suo 20° compleanno lui inizia a scrivere giovanissimo, lascia gli studi a 17 anni per continuare a modo suo letture selezionate da grandi classici, si immerge nelle letture, arriva a essere Truman Capote, quindi insomma c'è speranza, voglio dire, lascia gli studi canonici giovanissimo, come ho detto, a 17 anni, e comincia un percorso da autodidatta. Arriva a scrivere il primo romanzo a 17 anni, l'età in cui comincia a scrivere quel primo romanzo, che a sua volta però, seppur da juniores, fa già parlare di lui, gli attribuisce una fama di pura eccentricità, sempre discussa come ben sappiamo, e fin dal principio non era quel romanzo molto influenzato da Carson McCullers, beh, decisamente, parleremo anche di quel romanzo straordinario, fra l'altro. Le controversie della sua opera non cessarono mai, ha ricevuto diverse critiche anche da colleghi importanti importanti e saranno spietati nei suoi confronti, da Alfred Caryn a Frank Carmaud, Harold Bloom e lo stesso Kenneth Enan. Per Sangue Freddo, a Sangue Freddo un altro capolavoro, il primo legal thriller se vogliamo, ha accusato Capote di aver accelerato l'esecuzione dei due colpevoli per mettere al sicuro la fortuna del suo romanzo. E infatti Leslie Fiedler nel 1960 scrisse di Capote: Truman Capote, che fin dal principio mostrò un notevole talento di scrittura, ha finito via via col recitare una parte sia nei suoi scritti sia fuori di essi, e rappresenta a beneficio del suo ristretto ambiente l'elegante androgino malinconico, metà reginetta di bellezza e metà anormale, ha dissipato quanto di buono prometteva dandosi al giornalismo. Questo è stata una delle critiche appena uscito a Sangue Freddo, uno dei capolavori assoluti di Capote, ma abbiamo parlato anche di un aspetto cinematico molto più legato al, in questo caso, una sorta di, non dico raffinatezza, però un concetto di narrazione diverso. Io ho preso Flirt, non ho preso Colazione da Tiffany, che già di per sé è un tema meraviglioso, però Colazione da Tiffany di Truman Capote, ho voluto prendere Flirt a Rio, da un disco Sol y Sombra, che appunto è dedicato a colonne sonore immaginarie. Ho cercato di tramutarlo invece per Truman Capote, questa bossa estremamente romantica che è colonna sonora di un Flirt. A tra poco. Mutato in bossa un'eventuale colonna sonora di Colazione da Tiffany, molto bella, ovviamente un capolavoro come del resto il film, ma il libro, come di solito si dice, no? Il libro, beh, intanto il primo lavoro, Altre voci, altre stanze. Siamo nel 1948, il lavoro che ha dato subito da discutere per quanto riguarda la narrazione di Truman Capote, il lavoro con il quale invece da ragazzo lo conobbi, pensate, è un romanzo molto molto atipico ed è anche l'aspetto trasversale ma ben riconoscibile di Capote che mi ha colpito particolarmente. È l'arpa d'erba, è arrivato tradotto da Garzanti. Garzanti ha un difetto, scrive piccolissimo, Subito dopo arriva Colazione da Tiffany, anche se il lavoro chiaramente che poi l'ha portato all'apice è del 1965, A sangue freddo. Anche di A sangue freddo, beh, non c'è bisogno che lo precisi, ne è stato portato poi sul grande schermo, un capolavoro, Lo abbassavano, dicevano ma lui non è realmente uno scrittore, poi così è adatto a scrivere trafiletti sui giornali, mentre invece questo lavoro A sangue freddo, lavoro veramente molto importante, diventa poi ufficialmente una pubblicazione, in effetti dopo essere uscito a puntate sul New Yorker. È un romanzo che porta nel resoconto dettagliato dell'omicidio della famiglia, di una famiglia del, per così dire, Midwest americano, la famiglia Clutter, ma anche in un'impietosa analisi del cosiddetto sogno americano, come vi ho detto, ambientato nel Midwest, vissuto in provincia, quindi una denuncia tostissima, oltre che scritto in maniera molto ispirata. È un libro che è stato ritenuto uno dei capolavori fondatori nella narrativa degli Stati Uniti d'America, nonostante non ne abbia una grande passione per quanto riguarda il lavoro dagli Stati Uniti d'America. Capote decisamente è qualcosa che va oltre, e pensate che anche John Updike l'ha criticato, però altro autore che a me piace tantissimo, ma penso che queste bagatelle interne tra scrittori e autori siano abbastanza consuetudine. prima della pubblicità per poi passare all'arte e passare a Robinson, l'inserto di Repubblica, l'eterogeneità e la capacità di un talento esteso. Capote ha molte tentazioni, aggiunge anche l'articolo, di diversa natura, anche saggistica, vero, in colazione da Tiffany molto meno, va da sé, rispetto a Sangue Freddo, che è un romanzo, sia pure un romanzo verità, e colazione da Tiffany è un racconto. Quindi insomma la capacità estesa di riportare le emozioni e di commuovere. A proposito di commuovere, dopo la pubblicità andremo in mostra e con Lacrime, qui aggiunte amare, non sempre. L'artista Francesco Vezzoli racconta la sua mostra al Museo Correr, dove porta una serie di opere che giocano con la pittura italiana e si confrontano con determinati spazi espositivi, grandi autori messi a confronto con un filo conduttore, le lacrime, lacrime amare, lacrime di commozione, a volte anche lacrime di gioia, perché no? Tutto ciò dopo lo stacco pubblicitario ai magazine del Breakfast Club. A tra poco. Extend your hands to see the setting sun, because you're rising your land. Extend your hands to see the setting sun, because you're rising your land. Sun is rising, look at the rising sun. Thank you. style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend. Moon River è stato protagonista per tutta la prima parte di questi magazine, quindi dalla voce di Audrey Hepburn ho portato l'originale tratto veramente dal film, in questo caso dal film stesso, Colazione da Tiffany, la narrazione e la scrittura di Truman Capote e la scrittura musicale di un immenso Henry Mancini. Beh, per accompagnare queste lacrime, se vogliamo, lacrime di commozione in questo caso, anche se l'articolo a pagina 30 di Robinson a proposito di arte parte da Lacrime amare. La mostra di Francesco Vezzoli, come ho anticipato, un artista che racconta un'intersezione tra i capolavori di tutti i tempi con l'aggiunta di lacrime. Non c'è niente nelle lacrime nella storia dell'arte, nulla, neanche un così un piccola citazione, e dire che ormai ne stampano su qualsiasi argomento. Anzi, le lacrime nell'arte in fondo sono poche, qualcuna in Giotto, sì, ci sono le Maddalene, ma quanti? I volti tirati di El Greco appaiono malinconici, gli occhi però risultano quasi sempre asciutti. Allora, beh, li ha messe molto evidenti l'artista Vezzoli, come possiamo vedere da qualche anticipazione. Versioni remake, un gioco con le opere di tutti i tempi che rimandano anche De Chirico, rimandano Giotto e rimandano un Raffaello, un womanizer, se pensi al fatto che il pittore voleva portarsi a letto la protagonista del ritratto, è tutto più semplice. Beh, insomma, l'ha un po' minimizzato, però... Capolavoro del Mantegna, San Sebastiano. Nel Museo delle Lacrime non poteva mancare un San Sebastiano. L'artista ha scelto quello di Mantegna, a cui si sostituisce nel volto. È una sorta, addirittura va oltre, il sadomaso all'italiana, è sempre il più interessante e anche dissacrante, se vogliamo, la stessa esposizione. Il San Sebastiano dovrebbe soffrire, ma non lo fa. Fluidità e languore hanno caratterizzato questa storia. Non troviamo corrispettivi nel mondo anglosassone. Certe vite di papi e cardinali sono meglio di Stuardot. L'opera più erotica di tutte si trova in una chiesa, e l'estasi di Santa Teresa di Bernini. L'ambiguità nell'arte è sempre un valore, nella politica no. Interessante intersezioni e comparazioni nella versione presentata al Corriere. Le pie donne dipinte da Giotto nella cappella degli Scrovegni piangono due grandi lacrime in cui si vede il re dei casinò americani, Steve Wynn, ritratto da Warhol. Quindi tra Andy Warhol e Giotto in questo caso vi è questa comparazione. Si dice che gli Scrovegni, è vero, fossero degli usurai, degli strozzini, ecco, chiamiamoli col loro nome, e chi meglio di Steve Wynn può utilizzare il concetto, lui che costruttore di casinò, gran collezionista, buca un Picasso di 50 milioni di dollari così per pura sbadataggine. C'è una linea di continuità che lega tutti questi aspetti. Si è permesso di sostituire la Venere di Botticelli con il Richard Gere di American Gigolo. Ecco, come vi ho detto, l'intersezione, filo conduttore, queste lacrime che troviamo nell'esposizione, la mostra al Museo Corriere. Ecco, questo sarebbe interessante da portare nella rubrica del giovedì. Oh, mi è terminato il disco così a sorpresa, intanto che stavo cercando di sfogliare per passare a un altro aspetto legato all'arte. Adesso è il tempo di ritrovare questi racconti che hanno a che fare con le grandi famiglie e con quello che si aspettavano, o almeno si proponevano e chiedevano agli artisti di portare un buon auspicio a questi incontri, che potevano essere d'amore o d'affari, e rappresentarli. Ne troveremo dei molto interessanti a breve, mi pare, sempre su Robinson di Repubblica. E di buon auspicio non sempre va bene, però. E allora, visto che stiamo oscillando da un magazine all'altro, a pagina 3 per la domenica del Sole 24 Ore, l'oroscopo si fa con due grandi maestri: rileggere l'arte. Costanza Barbieri esamina ogni immagine della loggia di Galatea alla Farnesina, stupenda, dove Raffaello e Sebastiano del Piombo sono accanto. Perché questo incontro? Beh, perché fosse di buon auspicio, e troviamo anche per quale motivo. Purtroppo non è andata così. Mentirono gli astri o gli astrologi, promettendo ad Agostino Chigi lunga vita, matrimonio nobile e prospera discendenza? Quel che pare, chi compilò il suo oroscopo spostò di 2 ore il momento della nascita per avere un responso più favorevole. Ma non possiamo fregare le stelle. Agostino non riuscì a sposare una Gonzaga come voleva, morì a 56 anni e il patrimonio finì col passare al fratello rimasto a Siena, quasi secondo quel che diceva la vera genitura, cioè la posizione degli astri alla nascita. Tutto ciò grazie alla scoperta di studiosi, di storici dell'arte, una delle molte storie che si intrecciano in questo libro portato da Costanza Barbieri sulla loggia di Galatea alla Farnesina, nella cui volta Baldassarre Peruzzi dipinse l'oroscopo per immagine. La traboccante erudizione, i dati, le ipotesi si innestano su una bibliografia in crescendo, come appunto in un corposo libro, in un corposo zodiaco e in una bellezza estesa che riprende dal mito un dittico d'autore, Polifemo, opera di Sebastiano Dal Piombo, a destra la ninfa Galatea di Raffaello, qui riportati nella sala che vi abbiamo appena descritto in Rileggere l'arte, riportando tutto ciò che sia di buon auspicio, e per farlo si è un po' modificato alcuni dati e purtroppo non è andata esattamente così, no. Le stelle e il mito non si incantano? No, attenzione. Galeotto fu il mito e chi lo scrisse, uno dei miti che più mi affascinano. Amore e Psiche, questa bellissima ragazza Psiche e la gelosia delle amiche, delle sorelle, delle ragazze a lei vicino, quando lei dice che ogni notte è così insieme a un ragazzo bellissimo e con lui trascorre dei momenti di estasi, di una bellezza straordinaria. È un uomo, ma veramente sembra quasi il dio dell'amore, e in effetti Eros lo è. Sapete la condizione perché Eros vada a far visita in maniera intima alla bella Psiche? È che lei non sveli assolutamente, si mantiene però sempre una certa... Io tanto più che io non mi faccio vedere, così non hai possibilità. E tu non cercare, non indagare, non cercare sulla mia presenza. No, abbiamo questi incontri bellissimi, tant'è. Le amiche gelose dicono: sì, noi l'abbiamo visto, chi ti viene a trovare ogni sera. E ovviamente cosa dicono queste male lingue? È un mostro, è veramente brutto e deforme, mostruoso. Per invidia dicono questo, in realtà ovviamente Eros è bellissimo. Allora lei disubbedisce. Pensate, dopo un incontro, lei con una lampada ad olio bollente vuole fare luce sul suo viso, perché dicono: ma come mi fa stare così bene? Com'è possibile che sia brutto? E accende la lampada ad olio, si vede l'uomo più bello in assoluto, bellissimo, questo giovane, e distrattamente lei, emozionata, trema, cade una goccia d'olio bollente, sveglia di soprassalto il dio dell'amore e lui scompare. Dietro questo mito è quanta riflessione, quanta verità, ma in tutti i sensi, non solo nell'amore, no, nella fiducia, in tutto. Parlarvi di Rachilde, ma in verità è un nom de plume, un nome d'arte. Margherita Emery, in arte Rachilde, pubblica nel 1884, ho già chiamato, sto facendo carte false per averlo, Messie Venus, subendo la condanna per pornografia, ma non è affatto un lavoro pornografico, è stato tradotto a suo tempo, è un'inversione di ruoli e trasgressioni, insomma è questa ragazza molto così, molto androgena, che ha atteggiato atteggiamenti, e spesso si veste, si atteggia da ragazzo, che si innamora di un ragazzo molto mite, molto dimesso, mi pare così, uno che lavora in un ufficio, che ha atteggiamenti un po' effeminati, e si innamorano, giustamente. Questa storia d'amore, come si è Venus riportato da Rachilde. Vanno a complemento, insomma, voglio dire, creando ovviamente uno scandalo incredibile. Pensate, siamo nel 1848, sto cercando questo lavoro, sto cercando questo romanzo. Ecco, questo lo vorrei presentare e leggerlo, ovviamente. Alle 8:50 minuti noi siamo giunti al termine. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a lunedì prossimo con i magazine, e con il Mood Groove invece a domani. Tra poco è di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, la rassegna stampa e il caffè paglia del lunedì. Una buona settimana. Lunedì 15 aprile, a metà del quarto mese del 2024, la nostra prima colazione in diretta termina qui. Un caloroso abbraccio dal vostro William Piani. Grazie per l'attenzione, buona giornata e buon ascolto. A domani, ciao a tutte, ciao a tutti.